Andava in discoteca con i movimenti imponente. Sono un pobre affortunato e già passava giusto in frente. Io chiamava d'immediato, c'era tutto tan barato. Mister tonto, che piacere, parlo gratis fin de sasta settembre. Io mi pianto un casco in testa para che parezca fiesta. Alla vista tutti parlano, ti faccio una chiamata. In verano che passava, gli amici non mi costa nada. Una raccia di chiamata, salve l'uteri di gata. Sono intrenato e chiamo l'importante zavar la latta. Oh yeah, servizio cocina. Ya voy, che idea. Qual idea, tutto il verano sin pagar. Che idea, qual idea, parla gratis come di star. De nuevo tutta vestimenta con lo che me avrà. Todos los días, tutto agosto, parlo gratis de dieta a dieta. Estar con Movistar y hablar gratis este verano. Che idea.